Eccoci, puntualissimi. Giusto una mezz'oretta, voglio dire, non è che 23:05. Siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa sull'87.9 in FM, sulla frequenza di Roma e dintorni. E questa è una nuova scalcinata puntata di 25 O'Clock. Puntata ricca di ospiti e cotillon che più tardi andremo a svelare. In velocità andiamo a recuperare un po' sul tempo. Cominciando dal sito della radio, sito attraverso il quale rimanere aggiornati con le notizie. I redazionali, podcast delle trasmissioni, sito attraverso il quale sostenere questo progetto libero del 1977. Che potete quindi sostenere oltre che a partecipare alle nostre iniziative andando a cliccare su Sostieni. E quindi www.ondarossa.info. O attraverso lo storico conto corrente postale, il 618040-01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185, Roma San Lollo. L'email di redazione è ondarossa@ondarossa.info, nonché le nostre email di trasmissione. E quindi 25 o'clock@ondarossa.info, oppure fantasma@ondarossa.info. Il numero di telefono è sempre lo stesso, 0649 1750. Vabbè, un saluto all'assente. Bella prof. E andiamo a presentare l'ospite di questa sera. Buonasera Claudia. Buonasera a tutti. No, la voce è studiata, eh? Cioè, Sì, è studiatissima dai giorni de tour. Va bene, poi ce li racconterà un po' questi giorni del tour, insomma. Sì, vabbè. No, vabbè, questa risata beffarda. Perché? Raffreddore di stagione, dai, quello che parlano tutti. No, dici che i giorni de tour faceva più. Capito, cioè più, no, perché una voce vissuta, perché la strada. Vissuta. Era raffreddore, voce del raffreddore. Ah, succede a tutti, anche a... Sì, sì, no, ha voglia. Vabbè, giustamente noi questa sera ci eravamo preparati tante belle cose, no? Lo voglio dire, era tutto perfetto. Poi, vabbè, giustamente... Poi l'effetto Cassandra si è rivoltato sulla radio. Effetto Cassandra che probabilmente in futuro si rivolterà sulla radio a pieno regime. Però intanto un assaggio questa sera ce l'abbiamo avuto già in fase preparatoria. È andato tutto male. Problemi con le tecnologie. Problemi con le tecnologie. Vabbè, noi qua a 25 O'Clock siamo esperti per non far funzionare nulla. E quindi, e no, quindi sei a casa tua. Sto a casa mia, perfetto. E insomma, Claudia è venuta qui ad insegnarci qualcosa. no, insomma, il disagio. Il disagio, insomma. Sì. E ci farà ascoltare qualcosa, non si sa come, perché aveva portato dei vinili, però insomma non li ascolteremo, però parleremo di vinili. Beh, sono tutti capaci a mettere il vinile sul piatto, insomma, a farlo girare. Eh certo, invece no, parlarne è tutta un'altra cosa. Oh, noi iniziamo, voglio iniziare così, insomma, e con questo gruppo da Modena, loro sono i Grumo. Ah, Ricky! Pezzi de core? Sì. No, perché era la frase della serie. Pezzi de core anche loro? Beh, Ricky sì, abbastanza. Perché c'ha anche un progetto Noise suo, quindi ne parliamo dopo. Certo, perché insomma di rumore non manca. Non manca. Gli mancava un po' di rumore, hanno fatto anche un progetto Noise. E questi Grumo, visti a Torre Maura per il compleanno di Torre Maura qualche tempo fa, di recente, l'altra settimana, e sono rimasto abbastanza contento. Loro sono i Grumo da Modena. Belli zozzi e disagiati, no, è bello scoprire così in diretta, no, le cose nuove, se no, no, mi dicevi del progetto nuovo Noise di chi? No, ma non è nuovo, lui ha un'etichetta che si chiama Scimmia Bastarda, e fa delle cose noise, poi lui lo chiama Yoga Noise, Ambient Noise, fa delle cose anche performative. E si chiama C più P più B o qualcosa del genere. E no, e noi l'abbiamo conosciuto, lui a Frosinone, quando abbiamo suonato con un tipo greco. Premessa: Il giro Noise qua a Roma si compone fondamentalmente si compone di 3-4 etichette. Una è Angst, che è quella con cui esce anche la mia roba. L'altra è Suicide, che adesso insomma è un attimino ferma. L'altra invece non è proprio di Roma ma di Aprilia, quindi giù verso Latina, e si chiama Scorze Records. Infatti proprio il ragazzo Lorenzo di Scorze Records aveva organizzato questo concerto. E un'altra ancora non è proprio di Roma, è di Frosinone, si chiama Sincope, ed è un ragazzo appunto di Frosinone Alatri, Massimo, tra l'altro forse già ve lo ricorderete come Truculent Boy, e cioè aveva un altro paio di etichette prima, e tipo La Mamma Mia Quanto Sangue, insomma pure lui viene dal punk come un po' tutti, dal punk, dal metal, black metal, quello che è, poi gli sono approdati bene o male al noise. E niente, abbiamo fatto questo concerto a Frosinone con questo tipo greco, che tra l'altro poi ci fu una mezza gag, che poi non è proprio una gag, poi magari ve la racconto, e lì abbiamo conosciuto Ricky, e l'abbiamo conosciuto appunto in veste di noiser, e poi insomma abbiamo scoperto che suonava anche nel grumo, e quindi però siamo rimasti molto in contatto. Ma l'anello di congiunzione tra questi diversi progetti qual è quello che hai riscontrato, il fattore comune di Ricky Grumo tra il grumo e il suo progetto? Sì. Solo? Vabbè, secondo me, vabbè, questa è una mia opinione di tanti, ma penso che sia abbastanza naturale nel 2015, se vieni da un certo tipo di musica o un certo tipo di ascolti, hai sempre suonato cose abbastanza estreme nel più totale, diciamo, significato che gli possiamo dare, approdare a quello che è la disintegrazione totale dei suoni, o comunque alla rimodulazione totale dei suoni, quindi l'assenza di strutture. Io penso semplicemente che Ricky, essendo dell'Emilia Romagna, quindi di Modena, e essendoci una grande tradizione lì di questo passaggio, perché posso citarvi da, non so, Mosnada, insomma vecchi gruppi della scena hardcore modenese, insomma, o comunque Reggio Emilia, cioè, quella zona lì, sono passati poi a fare con Iron Molar, comunque c'era la The Fucking Clinica di Marcellina e Melo, insomma è gente che veniva dall'hardcore anni 90, che poi ha deciso a un certo punto di decostruire definitivamente il suono facendo dei progetti di matrice noise. Ma magari è proprio l'area geografica, perché Modena è una città un po' oscura e decadente, non so se... Ma in generale tutta l'Emilia Romagna è abbastanza oscura e decadente, anche se ultimamente ti darò questo colpo al cuore, ma secondo me le cose sperimentali sul noise anche abbastanza interessanti, vabbè, a parte Roma che sembra un'autoincensazione, la possiamo anche lasciare là, però secondo me un po' è vero, sono Napoli e il Veneto. Quindi comunque le realtà su questo tipo di genere, quindi l'evoluzione del noise, della ricerca di questo tipo, non necessariamente intellettuale, ma che rimane legata comunque a una tradizione di hardcore. Io dopo, se vuoi, un po' di dischi me l'ero portati, che di gente anche che partiva appunto dall'hardcore e poi è finita a fare noise, quindi comunque... Guarda, la curiosità me l'hai messa, però noi... No, magari parliamone dopo. Sì, ma tanto noi siamo schizofrenici, quindi dal grind della chiacchierata sul noise. No, comunque sì. Modena, Reggio Emilia, in generale pianura padana, per me grande scuola in adolescenza e post adolescenza, per me grande scuola di vita, sia per quanto riguarda l'hardcore che il disagio, che la musica, che il disagio, ma anche tutta un'altra serie di cose che poi sono vicine all'hardcore, quindi vabbè. Che non ne parleremo mai. Cioè, però vabbè. No, vabbè, nel senso, sono affezionatissima a quei posti. Pezzo di cuore. Pezzo di cuore. Vabbè, insomma, ci viene naturale, non so perché, stare dal grind dei grumo. Ci spostiamo da Modena nella Tuscia. E questa è la Tuscia Ska di Maleducazione Alcolica, che suoneranno il prossimo 27 febbraio per il 20° compleanno della SNIA, insieme ad Happy Noise e Pancreas. Ed è un'iniziativa appunto per festeggiare i 20 anni della SNIA. Ed è una serata a sostegno della resistenza curda. quindi da grumo hai maleducazione alcolica. Non sapere, non ha scuse. È come chi sta fermo aspetta, ma non ha fretta. È come quella razza ignara che non parteggia. È l'uomo che si fa ingannare e non protesta. Un atto perdere la testa conviene pure. D'altronde non si può mai dire che c'è di male. Fa parte della razza ignara, si può evitare. Restare fuori non è male, non puoi scappare. Corri, corri, corri. Del momento scuro e mi addormento. E non è sintomo di malcontento, nemmeno una canzone di protesta. Non è una posizione presa questa, ma scelta preparante della massa. Corri, corri, corri. Resta fuori, resta fuori. Corri, corri, corri. Resta fuori, resta fuori. Corri, corri, corri. Resta fuori, resta fuori. Corri, corri. Quando inizia a funzionare è un veleno, mentre in circolo letale non c'è siero. Scuoto ogni membrana, attacca i nervi, ride in faccia esterica, più subito li ricatti. Dei mascheri con dardi se ne frega, non ride a chi conviene e non li prega. Non guarda nel buon viso, nella toga, non gioca. L'odio come crede, la violenza come droga, si sfoga. Ferocemente aspetta la sua preda, la brucia piano piano a mo' di strega. Per illuminare a rabbia scritta in rosa, mentre strisce quei lacci si sposa. Con chi non vuole niente e chi la stessa cosa. Corri, corri, corri. Resta fuori, resta fuori. Corri, corri, corri. Resta fuori, resta fuori. Corri, corri, corri. Resta fuori, resta fuori. Corri, corri, corri. Ed è uscito l'ultimo lavoro dei Godzilla, Le tre bambine coi baffi, a titolo Finché non creperò. Salutiamo tutti i Godzilla. Ed anche il Caciotta. In particolare il Caciotta. Voglio allora scappa via, vita qui non c'è. E il tuo Dio adesso, dimmi stai dove. Un Caciotto infestante, è un personaggio infestante. Ma no, è un personaggio folcloristico. Un personaggio fondamentale, direi. Come? Fondamentale. Un personaggio fondamentale. Si fa sentire, pure tra il pubblico. Cioè, nei concerti, insomma, in giro qua a Roma, la presenza del Caciotto è un elemento quasi fondamentale. Assolutamente. Vabbè, questa ce la riascoltiamo da capo, che è la sesta traccia, Sei solo. Vabbè, c'è qualcuno che lo sa, eh. Solo più che mai. Che allo 06491750 arrivano i trilletti. Solo più che mai. Che da queste parti è un come again. E quindi da capo Godzilla. Dalle paludi di Aprilia. E ci abbiamo una proposta da Claudia. No, perché dicevamo, anzi diceva Dario qui, che oh, i concerti dove ho visto la gente che cantava bellissimo, cioè, Godzilla, Tre Bambini con i Baffi, Bomb Machine, gli ultimi, ci davamo sì. Pure gli ultimi, e ha detto guarda, non di Roma, magari non ti è mai capitato, ma un gruppo della Lombardia, San Colombano all'Ambro, che è provincia di Milano ma è molto più vicina a Lodi che a Milano, che si chiamano X-Mary, forse qualcuno all'ascolto li conosce già. Sono un gruppo indefinibile, fanno qualsiasi tipo di genere ironico, demenziale, comunque con una matrice punk. Però durante i loro concerti, scatta Woodstock, la gente canta tutti i pezzi, balla tutti i pezzi e non li fa mai smettere di suonare. E quindi ho detto vabbè, dai, perché su questo filone non mettiamo un pezzo che è secondo me del loro capolavoro, che è A tavola con il principe, uscito per un po' di etichette di su un po' di tempo fa, in cui c'è state varie ristampe, va detto anche questo, quando il DIY diventa ristampa, usciti per Wallace, ristampati eccetera, e questa è Zucca, che è un pezzo molto bello. Io ho riso per ore la prima volta che l'ho ascoltato, ma proprio ho riso. Vabbè, buone risate. Questi sono gli X-Mary con Zucca. So. Quiero bailar con Zucca. Voy a bailar con Zucca. A río es inventar el rato que vale el río. Cuando bailo con i piedi son i piedi di Dio. Yo voglio Zucca. A río. Giro bom, giro bom, giro bom, bom, bom. Con Zucca, voglio ballare con Zucca, anch'io diventare re del carnevale. abbiamo Claudia qui che ha portato dischi e aneddoti. Era nascosta, timida e sbiadita. Timida. Timida, ma cosa appunto? No, dicevo che sì. No, sempre andando randomicamente, no? Certo. Che gli X-Men l'ho conosciuti grazie a Nico dei Laghetto, che è Nico dei Marnero, che so che Dario apprezza tantissimo. Bene, bene, anche, sì, sì, sì. Insomma, Nico dei Laghetto, Radiger, Tuono, magari qualcuno conosce un po' di fumetto italiano, quindi sa chi è Tuono Pettinato, il Radiger, eccetera. E, oppure Luca Antonozzi, semplicemente della Sangue Dischi, che è tuttora anche Marnero. Con cui insomma siamo amici da un bel po' di pezzi de core. Pezzi de core, certo. E in questo caso veramente tanto. E quindi dicevo, visto che li ho scoperti grazie a Nico, che c'ha l'occhio lungo su un sacco di cose, perché poi alla fine è vero che sono politicizzati, è vero che sono comunque, sembrano seriosi, ma poi alla fine sono dei gran cazzoni, come un po' tutti noi. E quindi grande apprezzamento per gli X-Mary. E io gli ho detto, vabbè, allora mettiamo un pezzo dei Laghetto, che continua ad essere uno dei miei gruppi preferiti italiani, di quello che è stato il filone DIY hardcore un pochino, insomma, 2000 più che anni 90, sinceramente. Però secondo me è grande band, appunto composta da Nico, Radiger, Luca, prima un altro batterista, e Tuono Pettinato alle chitarre finte, quindi comunque sempre quell'approccio ironico e dissacratorio. Finte. Sì, sì, Tuono suonava una fantastica chitarra giocattolo, facendo gli assoli, accordando, spingendo i pedali. Chi si è visto i Laghetto, e in un bel po' si saranno visti i Laghetto, se li ricordano molto bene. Bene, bene, noi ce li ascoltiamo con Avril Lavigne. Avril Lavigne, che è il pezzo d'apertura del secondo album Poca Apocalisse. No, vabbè, insomma, il secondo full length, come si dice in questi casi. Secondo full disco, length. Il secondo disco lungo, LP. Quello con un sacco di pezzi, così. Vabbè, ciao. Dai, l'abbiamo già accennati prima. Loro sono i Marnero, basati a Bologna, qui ci dice Claudia. Beh, ormai non lo so, perché Luca vive a Roma adesso, quindi vabbè, non tra l'ovunque non hanno un'identità geografica ben precisa. Bologna, Roma, il Veneto attualmente, ovunque disagio. No, potrebbe essere uno spot per una campagna elettorale. Beh, ovunque... almeno sarebbe veritiera, per certo. Una volta. Vabbè, Mar Nero dal loro ultimo lavoro è totalmente scaricabile dal loro sito, quindi se volete è sempre stata una loro politica, quindi... ce li riascoltiamo da capo, eh? E questa è la quinta traccia, Il porto delle illusioni. Da capo. No, volevo dire la trilogia del naufragio. Questo è il secondo disco della trilogia del naufragio. Cioè, hanno fatto tre dischi, ma il primo è uno spettacolo. Il primo disco, la prima parte, diciamo, di questo naufragio, e questa è la seconda parte. Beh, quindi da un gruppo che si chiama Mar Nero. No, ma Nico è sempre stato concettuale, anche quella ghetto, perché poi la ghetto è diventato Vedi? Mar Nero, si è straripato un attimo. È il disagio che avanza. Dai, da capo. Thank you. E questi erano i Juggernaut da Roma. Pezzi de gore. Pezzi de gore, eh? Sì, ormai lo dico a rotella. No, pure qui è molto vero. Anche in questo caso è molto vero. No, l'avevi detto a microfoni spenti. Il tuo maestro. Ah, scusa. No, l'unica persona che ti ha insegnato a suonare la chitarra. Beh, ma insegno. No, nel senso che io già la suonavo male. Però poi ho detto a lui: dammi un attimo l'inquadratina. Quindi per un anno e mezzo è stato il mio insegnante di chitarra. L'unico insegnante di chitarra che ho avuto è stato Luigi degli Jagger, il mio grande amico. Pezzo de cuore. Pezzo de cuore. E no, un altro pezzo de cuore ce l'abbiamo pronto sull'altro lettore, sono i Gerda. Altro pezzo de cuore. Ah no, vabbè, lo diciamo, questa è una comunicazione di servizio, perché loro saranno a Roma con i Moe. Sì, e prima dei Moe vengono al Verme, a metà marzo. Metà marzo, sì. E poi ritornano, con i Moe. Che no, sono un gruppo svedese. Gruppo svedese, sì. Credo, sì, no, li abbiamo passati qualche settimana fa. E no, beh, c'hanno questa data libera, insomma, se li volete far suonare... Poi non mi ricordo esattamente il giorno, penso 23 aprile. Penso 23 aprile. Vabbè, suoneranno con noi, loro sono i Gerda, un altro pezzo. De gore. Yeah.

gli amici si chiamano a mezzanotte così a caso, insomma. Cioè, disturbiamo il Fabrizio, insomma, che se la sta godendo sotto le Alpi. No, no, ci servi. No, no, cioè, banda le ciance. Pensavo dicessi se la sta godendo sotto le coperte, ma anche no, insomma, ecco. Insomma, vabbè, Claudia, come mai l'abbiamo chiamato? Non mi ricordo. Ti abbiamo chiamato perché volevamo che ci conciliassi, non che consigliassi. Un pezzo di DSA Commando. Un pezzo di DSA Commando? Sì, quello che è più pezzo di core. Hai ritrovato il CD che ho perso, che abbiamo perso. No, vabbè, sì, forse qualcuno ha trovato alla SNIA un CD imballato e di DSA Commando, magari non l'ha aperto. E se l'è tenuto aspettando questo annuncio, quindi se l'avete trovato riportatelo qua. Ma io non lo so, un pezzo potrebbe essere Notturni, anche se non è dell'ultima raccolta coprodotta da Mastello Records e non è neanche del loro ultimo disco in studio, ma è di quello precedente. E vabbè, che dai. È quello che... col quale ho avuto poi il modo di saldare un'amicizia che già durava già da prima, però Destroy the Enemy, che è il disco. Ma un'amicizia ricambiata oppure una cosa tua? Niente, no, continua. Sì, Fabrizio. E quindi è un pezzo abbastanza, secondo me, giusto per l'orario in cui avete rotto. Ho capito. In cui ci troviamo è un pezzo abbastanza cupo, come piace ai nostri, alla Combo di Savona. Non so, loro sono in studio per registrare cose nuove, hanno perso nel frattempo un elemento, hanno perso il Carayot un po' per strada, un po' così svogliatamente, se vogliamo dirlo, e niente, loro sono una delle crew hip hop, ma si definiscono anche hardcore per il semplice motivo, sì, per cui usano un sacco di campionamenti da pezzi storici della cultura rock, ma non solo rock, anche metal. Scusa Fabri, perché guarda, sono lungimirante. Ti potrà sembrare un'offesa, magari anche a chi ci ascolta, non sto offendendo Fabrizio. Secondo me tra 20-30 anni sei proprio da talk show televisivo. Sì, no, ma no. Sicuro, ma adesso mi sono messo anche in testa di fare lo scrittore, quindi vi diremo poi, quando ci sarà più, tra virgolette, ciccia. Ma scrittore di enciclopedie? Più o meno. Sì, un'enciclopedia enorme su una roba che si chiama Torino Hardcore. Pura filosofia. Dal 1989 al 2005. Però lo vedi che sei tu, insomma, che vai, insomma. No, va bene. Mi sono ritrovato nella sala del lupo. Vabbè, io vi saluto, non facciamo perdere tempo ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici. No, anche il telefono, più che mai il telefono che costa. Ah, infatti, in effetti costa tantissimo. Anche a Blackout ultimamente abbiamo un po' di problemi di questi sovrastretti, insomma. Vabbè, quindi buonanotte a tutti, passatela buona, ormai tra poco voi sarete a metà della trasmissione più o meno, no? Vabbè, sì. Io te la comando. Ciao ragazzi. Ciao Fabri. Ciao. A fare in culo i vecchi tempi, tu resta all'ascolto se mi senti. No, non c'è luce più per te qua in certi momenti. Ti porto dove l'asfalto finisce, questa notte inizio, dove la città precipita a picco su un precipizio. Un'altra stagione morta in questa città natale, e una voce in testa dice: dove cazzo pensi di

di presentazione di Scarceranda 2015. Poi a seguire un aperitivo a sostegno della radio. Mentre questo venerdì 13 febbraio un'iniziativa a sostegno della rete Evasioni. Presso lo spazio sociale 100 celle aperte. Ci sarà dalle 18.30 la presentazione dell'ultimo libro di Salvatore Ricciardi. Cos'è il carcere? Vademecum di resistenza. Poi delle 20.30 una cena vegana a sostegno della rete Evasioni. Presentazione che si ripeterà in quella del Casale Alba questo sabato. Quindi dalle ore 18 la presentazione di Scarceranda, poi a seguire la presentazione del libro Che cos'è il carcere. Poi dalle 20.30 una cena a sostegno di Radio Onda Rossa. Chiuderà un concerto di Sergio Rosso Malpelo Gaggiotti. Li abbiamo visti di recente insieme a Serpenseno di Dirty Jobs e Kalashnikov. E loro sono i La Furia. Pezzi di core? Pezzi di core anche loro, sì. Qui del loro ultimo lavoro. No, volevi aggiungere qualche gossip su, no, su qualcuno? No, semmai di che io li chiamo bonariamente i Caciotta Against the Machine. Bello. Sarà fiero.

Mezzanotte 32 minuti primi, siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in FM e questa è 25 o'clock e siamo nel pieno della 25esima ora. Decisamente. Quindi le come? Decisamente. Sì. No, le atmosfere si fanno più dilatate. Dilatate. La prima volta che vedemmo il nemico. No, e allora proponevo, se vogliamo stare sempre sugli italiani e in fondo trovare ancora un filo conduttore che non c'è, ma c'è, in fondo c'è. La prima volta che vedemmo. Sì, pieno di nodi, vabbè. O sul fondo delle vaschette della carne macinata. Ma è così, cioè il senso. Qual è il senso? La musica. La musica. Del supermercato. Do it yourself, tutto quello che faccio è così, completamente, secondo me. Vabbè, comunque il filo conduttore c'è. Perché Squadra Omega, quel gruppo che stiamo per mettere, oltre ad essere Veneto, che comunque abbiamo parlato a un certo punto del Veneto, quindi vogliamo rimanere sempre nel genere. Sono usciti con questo disco bellissimo, si chiama Le Nozze Chimiche, e per una etichetta veneta, secondo me, che vale molto la pena sia per la cura che mettono nei vinili che fanno uscire, eccetera, che è la Macina Dischi. E sono la coppia Kelvin, loro hanno un gruppo, si chiamano Kelvin, e sono, insomma, fanno uscire tutte cose più o meno del Veneto, dall'hardcore a cose appunto più psichedeliche, comunque delle loro zone, quindi supporta la tua scena locale, come ultimamente si legge un po' ovunque. E loro lo fanno, e lo fanno anche in maniera abbastanza aperta. Loro sono un gruppo particolare, adesso girano anche in versione un pochino ridotta, sempre con atmosfere un po' psichedeliche, un po' così, quindi fanno anche parte di quella che è chiamata la bellissima scena dell'occulto italiano, che noi bene, conosciamo bene, noi del Dal Verme dico in generale, però insomma che... Attinge in tantissime realtà che poi alla fine sono Do It Yourself, quindi ce ne sarebbe da parlare. E niente, quindi andiamoci ad ascoltare Squadra Mega, da atmosfera un pochino più dilatata, più psichedelica, ma comunque da un'etichetta che fa anche hardcore, e quindi rimaniamo sempre in casa. Quindi sono sempre pezzi decori. Loro li conosco un po' meno, li ho visti sempre molto sbronzi, come più o meno puoi incontrare un sacco di veneti, ma questo non è un'accezione negativa per me, è un'accezione positiva, certo. E però dai, mezzi pezzi di dai, Squadra Omega, avviso agli imprudenti. questo pezzo degli Squadra Omega. Continua a scorrere. Quindi dal disco Le Nozze Chimiche. Noi invece qui andiamo a chiudere le nostre chiacchiere ed andiamo a chiudere questo mercoledì 11 febbraio. E quindi le trasmissioni torneranno in diretta domani mattina dalle ore 8 con la rassegna stampa, per poi proseguire con i redazionali della mattina. Il giornale radio delle ore 13 con spazio comunicazioni e a seguire Visionari, la trasmissione sul cinema. Dalle ore 16 Attica Blues, oltre alla Black Music. Poi dalle 17 con Le Schiene del Soul. Bella Martis. Dalle 18.30 dovrebbe esserci Profondo Rosa. Il giornale radio delle 19.30. Poi dalle 20.15 Allegro con Fuoco, la trasmissione di musica classica. Dalle 21.00 alle 22 a chiudere le trasmissioni del giovedì con Apostasia. Claudia, abbiamo scelto un pezzo di chiusura, se te lo ricordi, eh? sì, non so desistere. Vabbè, ci stava, siamo stati su tutte cose italiane con una certa matrice, quindi secondo me è un bel pezzo di chiusura. Ci può sta. Sì, proprio tratto dal famoso split coi Marnero. Mm-hmm. Vedi, tutto torna. Respect This Shies. Ed è un pezzo molto bello, secondo me. E da presa male della buonanotte. Ah, benissimo. Per tutti. Quindi una mala notte. Un sing-along tutti insieme. No, beh, giustamente no, abbiamo iniziato la trasmissione sotto il segno dei problemi tecnici, quindi andiamo a chiudere la trasmissione con scarsa padronanza tecnica, insomma. Dai, vabbè, un po' di silenzio dopo questo pezzo ci vuole, un minimo di riflessione. Allora, Claudia, ci salutiamo, ci vediamo prossimamente, magari da queste parti. Così. Sembra. Va bene, insomma, ci porti altre frequenze. Altre frequenze, sì. Vabbè, sì, verrò. Sì, lo dico. Verrà Claudia, sì, lo puoi dire. A fare un set, ancora da decidere in quale. Cioè, devo ancora capirlo, perché insomma che faccio roba comunque di noise, di radical pro noise, quindi diciamo qua delle cose stanno in uno spazio un po' particolare. Non si potranno fare altre, sì, quindi capendo un pochino, sì, verrò col mio progetto Cassandra, possiamo dire. Benissimo. A fare un mini book. Non lo so. Live, secondo me. Sì, un live set qua negli studi di Randonda Rossa. E quindi ci vediamo presto. Grazie di essere venuta qui. Grazie a te, Dario, grazie a Radio Onda Rossa, grazie a Fabrizio. Certo. Che si è svegliato, credo, da sotto le pezze. Va bene. Grazie a voi tutti e tutte. E buonanotte. Buonanotte. E noi ci risentiamo mercoledì prossimo. Buonanotte. Yeah. our dreams. I'll share our dreams under a communist moon.